7. Arrivarono 3 giorni dopo. Non aveva ancora smesso di piovere e il mondo era ammantato di grigio. Per le strade del villaggio si sprofondava nel fango fino alle caviglie. Camminare costava uno sforzo enorme. La gente restava in casa o nelle stalle ad accudire gli animali. Un ragazzino andò ad avvertire Joseph. Era più di un'ora che quei 3 se ne stavano appollaiati sulla staccionata come corvi. Nessuno aveva capito cosa aspettassero. Curvi sotto le incerate, i tricorni afflosciati dalla pioggia, lo osservarono avvicinarsi senza muovere un muscolo. Solo Harry Hogg allungava di tanto in tanto il collo da tartaruga per sputare grumi di tabacco in una pozzanghera. Lo sguardo ebete di Johnny faceva il paio con quello affilato di Daniel Secord. Quando Joseph fu molto vicino, saltarono giù dalla palizzata e si piantarono nella mota. «Salute, Joseph Brandt!» disse il più anziano degli Hogg. Rivolse loro un cenno del capo. «Abbiamo sentito del tuo ritorno», proseguì l'altro. «Quasi non ci speravamo più. Dicono che in Inghilterra hai incontrato il re». Joseph annuì. «Miseria ladra, non era una balla», commentò Johnny. Il fratello lo colpì con il gomito. «Allora forse puoi cavarmi questa curiosità», spinse la faccia in avanti. «Risponde al vero che sua maestà ha 9 figli?» La regina era incinta del 10º. Harry Hogg annuì fra sé. «Una grande nazione, per Dio! Il vigore del nostro monarca non ha eguali nel mondo!» «Il re ha mandato le truppe», disse Joseph. «La controffensiva è massiccia». «Le ha mandate a New York», ammiccò Secord. «Qui non si sono viste». Joseph lo squadrò a lungo. Portava ancora gli amuleti Seneca. Era pallido ed emaciato. «Qui la guerra è compito mio», disse. «Sono tornato per questo». Il collo di Harry Hogg si protese ancora. «Sono le parole che volevamo sentire. Dio ti benedica, Joseph Brandt, e benedica Re Giorgio. Quando cominciamo?» «Quando saremo pronti». «La lista è bella lunga», disse Johnny. Questa volta il fratello non lo inibì. «Da una dilla qui abbiamo contato almeno 5 fattorie di traditori». 3 paia d'occhi si fissarono sull'indiano. Joseph sapeva che da quel momento ogni sua parola avrebbe avuto un peso diverso. Era preparato. I 2 mesi di stallo a New York gli avevano dato tempo di pensare e studiare un piano. «Servono polvere da sparo, munizioni, provviste e denaro», li vide annuire, «e uomini disposti a combattere». «Possiamo radunare parecchia gente in gamba», disse Hogg. «Sinceri lealisti». «Gente determinata», ribadì Secord. «Fatelo. Io andrò a Fort Niagara a procurare quello che ci serve. Chiederò l'appoggio delle nazioni. L'appuntamento è qui, per l'inizio della primavera». Harry Hogg simulò un colpo di tosse. «Con rispetto parlando, Joseph Brandt, noi 4 siamo pochi per questo compito». «Siamo più che sufficienti se lasciamo diffondere la notizia». «Quale notizia?» chiese Johnny. Joseph lo squadrò col cipiglio di un ufficiale che passa in rassegna un sottoposto. «Che capo Joseph Brandt combatterà i ribelli di Albany in nome del re e che non si fermerà finché non li avrà sconfitti». Sulle facce dei 3 uomini si stampò un ghigno avido. Isaac si sentì afferrare per la collottola e prese a dimenarsi come un animale al laccio. Susanna lo strattonava. Era corso fuori di nascosto per raggiungere lo spiazzo centrale del villaggio dove si stavano radunando tutti gli abitanti. Invece di nascondersi, era rimasto in piedi a guardare i vecchi avvolti nelle coperte tribali, i giovani che ostentavano giacche di lana logore e cappelli malconci, i bambini Oneida che occhieggiavano tra le gambe degli adulti. Qualcuno aveva gettato delle assi sullo spiazzo perché non si affondasse nel fango. Suo padre impugnava il bastone da passeggio, tenendolo alto per chiedere silenzio. Al suo fianco, un po' discosti, c'erano quei 3 uomini. Isaac l'aveva capito subito cosa erano venuti a fare. Erano venuti a prendere suo padre per portarlo via di nuovo. Così lui sarebbe rimasto ancora solo con le donne. Susanna, Cristina, nonna Margaret. Suo padre prese a issare sull'asta la bandiera che aveva portato da Londra. Gliel'aveva mostrata la sera prima, quando lui era sgattaiolato di sotto, incapace di prendere sonno, attratto dai rumori. L'aveva trovato che svolgeva il pezzo di stoffa con le 2 croci incrociate. «È la bandiera del regno», aveva detto. «Tuo cugino Peter la porta per il suo reggimento». Era bella. Isaac aveva pensato che quando fosse toccato a lui andare in guerra si sarebbe dipinto la faccia con quei colori. rosso, bianco e blu. Il vento lambì la stoffa e lo schiocco risuonò nell'aria. Suo padre scandì le parole. «Questa è la bandiera del re inglese, la conoscete tutti. Da oggi è anche la bandiera di Joseph Brant Thayendanegea. Abbatterò chiunque voglia abbatterla. Accoglierò, sotto il mio comando, chiunque voglia difenderla. Dio salvi Re Giorgio e le sei nazioni irochesi!» Estrasse il coltello e incise nel legno il simbolo del clan.